E allora, visto che tanto questi pezzi li possiamo anche staccare, io allora parlo e magari rimangono anche nel CD. Quindi, Lidl, Aldo, Nicola, Roberta, Prong, Derios, Luca e Pietro. Ci ama me.